Il terzo anello ad alta voce, per chi suona la campana, di Ernest Hemingway. Ora erano nuovamente insieme nel sacco ed era notte tarda, l'ultima notte. Maria gli si stringeva contro ed egli sentiva contro le proprie le sue lunghe cosce lisce e i suoi seni come due piccole colline che sorgessero da una lunga pianura dove ci fosse una fonte e il paese lontano oltre le colline era la valle della sua gola che egli baciava. Egli giaceva tranquillo senza pensare e lei gli carezzava la testa con la mano. «Coniglietto», disse egli, «tu sei meravigliosa». «Che va?» fece Maria. «Ma non è facile imparare tutto quello che occorre per essere una buona moglie in un giorno mentre leviamo il campo e ci prepariamo una battaglia e mentre si combatte un'altra battaglia su per i monti. E se farò dei grossi sbagli, tu dimmelo, perché io ti amo. Io forse non mi ricorderò bene di tutto. Certe cose che Pilar mi ha detto erano molto complicate». «Che cos'altro ti ha detto?» «Pues tante e tante cose che non riesco a ricordarle. Ha detto che potevo dirti quello che mi hanno fatto se mi rimettevo a pensarci, perché tu sei buono e avevi già capito tutto, ma che sarebbe stato meglio non parlartene mai, a meno che non mi sentissi di nuovo soffocare come da una cosa nera, come mi accadeva prima, e allora dicendolo a te avrei potuto sbarazzarmene». «Ti senti ancora soffocare?» «No. Da quando siamo stati insieme la prima volta è come se non mi fosse accaduto mai. Ma vorrei che tu sapessi quello che devi sapere per il tuo orgoglio, se dovrò essere tua moglie. Io non mi sono mai sottomessa a nessuno. Mi sono sempre difesa. E ogni volta dovevano mettersi in due o tre per farmi male. Uno mi sedeva sulla testa e mi teneva. Ti dico queste cose per il tuo orgoglio». «Il mio orgoglio è in te, non dirle». «No, no, io parlo dell'orgoglio tuo. Tu devi essere orgoglioso di tua moglie. Ed ora un'altra cosa. Mio padre era il sindaco del villaggio. Era un galantuomo. Mia madre era una donna onesta e una buona cattolica. E la fucilarono insieme a mio padre per via delle opinioni politiche di mio padre, che era repubblicano. Io li ho visti fucilare tutti e due e mio padre disse: "Viva la Repubblica!" Era appoggiato al muro del matadero quando lo spararono. Mia madre, che era in piedi contro lo stesso muro, disse: "Viva mio marito, che era il sindaco di questo villaggio". E io speravo che avrebbero fucilato anche a me e volevo dire: "Viva la Repubblica e viva mis padres!" Ma invece non mi fucilarono, ma mi fecero quelle cose. Io stessa non riuscivo a piangere, non mi accorgevo di niente perché continuavo a vedere mio padre e mia madre nell'istante dell'esecuzione. E mia madre che diceva: "Viva mio marito, che era il sindaco di questo villaggio". E c'era nella mia testa come un grido che non moriva, ma continuava sempre. Mia madre non era una repubblicana e perciò non aveva gridato "Viva la Repubblica", ma solo "Viva mio padre", che era steso lì, a faccia all'ingiù, ai suoi piedi. Eravamo legati per i polsi in una lunga fila di ragazze e di donne e i falangisti ci spinsero su per la collina e per le strade fino alla piazza e si fermarono davanti alla bottega del barbiere, che era sulla piazza del municipio. Poi due uomini ci guardarono e uno disse: "Questa è la figlia del sindaco", e l'altro disse: "Comincia da lei". Allora tagliarono la corda che mi legava i polsi mentre uno diceva agli altri: "Lega di nuovo la fila", e quei due mi presero per le braccia e mi sollevarono e mi misero sulla poltrona del barbiere e mi tennero ferma. Il mio dolore era così forte che non avevo paura o altri sentimenti, solo dolore. In quel tempo portavo i capelli in due trecce e mentre mi guardavo nello specchio uno degli uomini mi prese una treccia e la tirò così forte che a un tratto mi dolse, malgrado il mio stesso dolore, e poi la tagliò con un rasoio, proprio al livello della testa, e poi mi vidi con una treccia e un mozzicone dove era stata l'altra. Poi tagliò l'altra treccia, ma senza tirarla, e il rasoio mi fece un piccolo taglio sull'orecchio e vidi uscire del sangue. Ecco, la senti la cicatrice col dito? Sì, ma sarebbe meglio non parlare di queste cose. Questo è niente. A un tratto il falangista mi si piantò davanti e mi sbatté le trecce sulla faccia mentre gli altri mi tenevano e diceva: «Ora ti facciamo diventare una monaca rossa. Questo ti insegnerà a unirti ai tuoi fratelli proletari, sposa del Cristo rosso». Mi portarono via dalla bottega del barbiere, tenendomi stretta per le braccia, e urtammo la mia migliore amica, Concepción Gracia, che altri due portavano dentro, e si mise a gridare, e io seguitavo a udire i suoi strilli mentre mi trascinavano attraverso la piazza e mi spingevano nel portone del municipio e poi su per le scale e nell'ufficio di mio padre, dove mi stesero su un divano, e fu lì che mi fecero le brutte cose. «Mio coniglietto», disse Robert Jordan, stringendolo a sé con quanta dolcezza poteva, ma era pieno d'odio, quanto può esserlo un uomo. Quella stessa notte, all'Hotel Gaylord, a Madrid, c'era una quantità di gente. Un'automobile si fermò sotto la tettoia dell'albergo. Aveva i vetri dei fanali dipinti di calce azzurrognola. Un uomo basso, con gli stivaloni neri, calzoni grigi da cavallo e una corta giacca grigia abbottonata, ne scese. Restituì il saluto alle due sentinelle, fece nell'aprire la porta un cenno al poliziotto in borghese, seduto al banco del portiere, ed entrò nell'ascensore. L'appartamento dove l'uomo viveva al Gaylord era affollato quando egli vi entrò. C'erano soprattutto persone sedute e in piedi, occupate a conversare come in un salotto, e gli uomini e le donne bevevano vodka, whisky al seltz e birra da certi piccoli bicchieri che riempivano da grandi boccali. Quattro degli uomini erano in uniforme, gli altri portavano giacche a vento o giacche di cuoio, e tre delle donne erano vestite con abiti qualunque da passeggio, mentre la quarta, una donna bruna, spaventosamente magra e scura di pelle, portava una specie di uniforme da miliziana di taglio severo e sotto la gonna portava degli stivaloni. Entrato che fu nella stanza, Kharkov andò dritto verso la donna in uniforme, che era sua moglie. Si inchinò davanti a lei e le strinse la mano. Le disse qualcosa in russo che nessuno udì, e per un momento l'insolenza che aveva nel suo sguardo quando era entrato nella stanza si smorzò. Vide poi la testa color mogano e la pigra faccia d'amore della formosa ragazza che era la sua amante, e quell'insolenza si riaccese di nuovo. E Kharkov andò verso di lei a corti passi precisi, si inchinò e le strinse la mano, parodiando, tutti lo capirono, il saluto fatto a sua moglie. Sua moglie non l'aveva guardato attraversare la stanza. Sempre in piedi discorreva ora in russo con un ufficiale spagnolo alto e di bell'aspetto. «Il tuo amore sta ingrassando», diceva Kharkov alla ragazza. Non guardava l'uomo di cui parlava. «Sei così brutto che saresti geloso di un rospo», gli disse allegramente la ragazza in tedesco. «Posso venire con te domani quando comincerà l'offensiva?» «No, e non c'è offensiva». «Tutti lo sanno», disse la ragazza. «Non fare tanto il misterioso. Dolores ci va. Io andrò con lei o con Carmen, e ci va una quantità di gente». «Se qualcuno ti ci porta, vacci pure», disse Kharkov. «Io non ti ci porto». Si volse poi alla ragazza e chiese seriamente: «Chi te ne ha parlato? Sii precisa». «Riccardo», essa disse, non meno seriamente. Kharkov la piantò, alzando le spalle. «Kharkov!» Lo chiamò un uomo di media taglia, con una faccia grigiastra, afflosciata, greve, dalle grandi borse sotto gli occhi e il labbro inferiore pendulo. «Hai sentito la buona notizia?» Kharkov gli si avvicinò e l'uomo disse: «L'ho appena ricevuta, meno di 10 minuti fa, è meravigliosa. Vicino Segovia i fascisti hanno combattuto tra loro tutto il giorno. Sono stati costretti a domare la rivolta con i fucili automatici e le mitragliatrici. Nel pomeriggio hanno bombardato le loro stesse truppe con gli aeroplani». «Davvero?» chiese Kharkov. «È vero», disse l'uomo con le borse sotto gli occhi. Kharkov si avvicinò a un altro uomo di forse 48 anni, basso, paffuto, gioviale, con gli occhi azzurri chiari, capelli biondi, radi e una bocca allegra sotto due baffi biondi. Costui era in uniforme, era un generale ungherese. «Eravate qui quando è venuta Dolores?» gli domandò Kharkov. «Sì». «Di che si tratta?» «Pare che i fascisti si siano azzuffati tra di loro. Bello se è vero». «Si parla molto di domani». «In un modo indecente. Bisognerebbe fucilare tutti i giornalisti e quasi tutte le persone che sono in questa stanza, e certamente quell'innominabile tedesco intrigante di Riccardo. Bisognerebbe fucilare chiunque gli ha dato il comando di una brigata». «E forse converrebbe fucilare anche noi due. Forse», aggiunse il generale scoppiando a ridere. «Però non lo proponete, eh?» «Questa è una cosa della quale non mi piace parlare», disse Kharkov. «Quell'americano che viene qui qualche volta, quel Jordan, sapete, che è coi partigiani, è laggiù, è proprio dove dicono che sia accaduta la faccenda. Dovrebbe mandare un rapporto stasera stessa, allora», disse il generale. «Laggiù non hanno simpatia per me, altrimenti andrei e farei io un'inchiesta. Quel Jordan lavora con Goltz, vero? Voi vedrete Goltz domani? Domani mattina presto. Stategli alla larga finché l'offensiva non sarà avviata bene», disse il generale. «Goltz vi odia quanto vi odio io, voi altre canaglie». Kharkov lasciò la stanza piena di fumo e di pettegolezzi, entrò nella camera da letto, posta sul di dietro, si sedé sul letto e si tolse gli stivali. Siccome gli udiva ancora parlare, chiuse la porta e aprì la finestra. Non si curò di spogliarsi, perché alle 2 avrebbe dovuto avviarsi attraverso Colmenar, Cerceda e Nava Serrada verso il fronte dove, la mattina, Goltz avrebbe attaccato. Erano le 2 del mattino quando Pilar lo svegliò. Quando la mano di lei lo toccò, egli credette sulle prime che fosse Maria e si girò verso di lei dicendo: «Coniglietto». Poi la grossa mano della donna gli scrollò la spalla ed egli fu a un tratto completamente, assolutamente sveglio, e la sua mano tolse la sicura alla pistola posata lungo la gamba destra nuda, ed egli fu tutto pronto e teso come la pistola. Riconobbe nell'oscurità Pilar e guardò il quadrante del suo orologio da polso. Le lancette brillavano formando uno stretto angolo in alto. Erano solo le 2. «Che ti succede, donna?» chiese. «Pablo se n'è andato», gli disse la grossa donna. Robert Jordan si mise pantaloni e giacca. Maria non si era svegliata. «Quando?» domandò. «Sarà stato un'ora fa». «E si è portato via qualcosa di tuo», disse avvilitissima la donna. «Ah sì? Che cosa?» «Non so», essa disse. «Vieni a vedere». Andarono nell'oscurità verso l'ingresso della grotta. Si piegarono ed entrarono passando sotto la coperta. Robert Jordan seguiva la donna nell'odore di ceneri spente, di aria guasta e di uomini addormentati nella grotta, facendosi luce con la lampadina elettrica per non calpestare quelli che dormivano in terra. Anselmo si svegliò e disse: «E ora?» «No», sussurrò Robert Jordan. «Dormi, vecchio». I 2 sacchi erano alla testa del letto di Pilar, che una coperta appesa separava dal resto della grotta. Tenendo la lampadina nella sinistra, Robert Jordan palpò il primo sacco con la destra. Era quello in cui riponeva il suo letto da campo e non doveva essere molto pieno. Non era infatti molto pieno. C'era rimasto un po' di filo di ferro, ma la scatola quadrata dell'esploditore era sparita, come pure la scatola di sigari con i detonatori ben impacchettati. Era pure sparita la scatola di latta col coperchio avvitato che conteneva la miccia e le capsule. Robert Jordan palpò l'altro sacco. Era ancora pieno di esplosivo. Mancava forse solo un pacchetto. Egli si alzò e si volse alla donna. Provava, moltiplicata per 1000, la sensazione di vuoto, quasi una sensazione di disastro, che un uomo prova quando lo svegliano troppo presto la mattina. «E questo, secondo te, significa custodire il materiale degli altri?» «Dormivo, con la testa contro i sacchi, toccandoli con un braccio», gli disse Pilar. «Hai dormito sodo?» «Vieni», disse Robert Jordan. «Quanto tempo fa credi che l'abbia lasciata?» «Deve essere passata un'ora, credo». «Allora non c'è niente da fare, ho capito», fece Robert Jordan. «Vado a prendere quello che è rimasto dei miei sacchi e me ne torno a letto». «Ma che cosa ha preso?» «Niente, donna. Certi lussi che uno si permette. Una parte del meccanismo per l'esplosione?» «Sì, ma si può ottenere un'esplosione anche in altri modi. Dimmi, Pablo non aveva micce e capsule? Devono avergliene certamente date». «Le ha portate via», disse avvilita Pilar. «Le ho cercate subito. Sono sparite anche quelle». Entrò con lei nella caverna e portò fuori i 2 sacchi, tenendoli stretti nelle braccia in modo che nulla potesse uscire dai tagli. «Lascia che li ricucia prima che ci avviamo», disse egli dolcemente. «Li prendo ora, non per offenderti, ma perché altrimenti non potrei dormire. Devi darmeli presto se vuoi che te li cucia». «Li avrai in tempo», le disse. «Va a dormire, mujer». «No», essa disse. «Ti ho tradito e ho tradito la Repubblica. Va a dormire un poco, mujer», disse egli dolcemente. «Va a dormire». In quel settore i fascisti tenevano le creste delle colline. C'era poi una valle che era terra di nessuno, ad eccezione di un posto fascista in una fattoria con i suoi annessi e i suoi fienili che avevano fortificato. Andrés, che portava a Goltz il messaggio di Robert Jordan, descrisse al buio un gran circolo intorno a quel posto. Andrés avrebbe voluto sbrigare subito la faccenda del messaggio ed essere di ritorno al suo posto la mattina per l'attacco. Voleva veramente tornare o fingeva solo di desiderarlo? Era ben conscio del senso di sollievo che aveva provato quando l'inglese gli aveva detto che doveva andar via col messaggio. Aveva pensato con calma alle prospettive della mattina seguente. Quello che c'era da fare, bisognava farlo. Egli aveva votato a favore dell'impresa e non si sarebbe tirato indietro. La fine di El Sordo l'aveva profondamente impressionato. Ma dopo tutto si trattava di El Sordo, non di loro. Loro avrebbero fatto quello che dovevano fare. Ma appena l'inglese gli aveva parlato del messaggio, Andrés aveva avuto la stessa sensazione di quando ragazzo si svegliava la mattina della festa del villaggio e sentiva piovere dirottamente e capiva che le strade sarebbero state troppo bagnate e la capea nella piazza non avrebbe avuto luogo. Da ragazzo Andrés amava molto le capeas e aspettava con ansia il momento in cui sarebbe stato sulla piazza, nel sole forte e nella polvere, con i carretti disposti tutti intorno a chiudere gli sbocchi e a formare un'arena chiusa, in cui sarebbe entrato il toro scivolando fuori dalla gabbia, frenando con le zampe puntate appena sollevato lo sportello. «Ma», disse a se stesso, «devo tornare indietro. Non si discute, devo tornare indietro per la faccenda dei posti di guardia e del ponte. Mio fratello Eladio, la mia stessa carne e il mio sangue è lì. Ci sono Anselmo, Primitivo, Fernando, Agustin, Raffael. Sebbene, certo, Raffael non faccia sul serio. Ci sono le due donne, Pablo e l'inglese. Sebbene l'inglese non conti perché è un forestiero e obbedisce agli ordini. Ci sono dentro tutti. Ecco, è impossibile che io debba sfuggire a questa prova per la casualità di questo messaggio. Devo ora consegnare presto e bene questo messaggio e poi sbrigarmi il più possibile per tornare al campo in tempo per l'assalto ai posti di guardia. E poi ucciderò. Sì, molto volentieri qualche fascista. È troppo tempo ormai che non li uccido. Domani potrà essere un giorno di azione molto efficace. Domani potrà essere un giorno che valga qualcosa. Venga pure domani e che io possa essere là. Se nostro padre non fosse stato un repubblicano, adesso Eladio e io saremmo coi fascisti, e se uno fosse soldato con loro non avrebbe problemi. Uno obbedirebbe agli ordini e morrebbe o vivrebbe, e alla fine tutto andrebbe come deve andare. È più facile vivere sotto un regime che combatterlo. Ma questa guerriglia è una faccenda che dà troppi grattacapi, se è uno di quelli che si pigliano grattacapi. Eladio riflette più di me. E si preoccupa anche. Io credo fermamente nella causa e non mi preoccupo. Ma è una vita questa piena di responsabilità. Non hai famiglia. Hai solo un fratello che domani va a combattere e non possiedi che il vento e il sole e una pancia vuota. Il vento è poco e non c'è sole. Hai sulla schiena una carabina, ma è buona solo a sputar palle. Hai un messaggio da consegnare e sei anche pieno di rifiuti che puoi dare alla terra, pensò sghignazzando nell'oscurità. Puoi anche annaffiarla di urina. Tutto quello che hai è da dar via. Sei un fenomeno di filosofia e un uomo disgraziato, disse a se stesso continuando a ridere. Ma ad onta di questi nobili pensieri, poco prima c'era stato in lui quel sentimento di sollievo che gli veniva sempre dal rumore della pioggia del suo villaggio la mattina della fiesta. Davanti a lui, in cima alla cresta, stavano ora gli appostamenti delle truppe governative dove, Andrés lo sapeva, l'avrebbero fermato.